La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi e 13 secondi in diretta da una troppo assolata, veramente canicolare Milano, qui dagli studi ridotti a praticamente una pentola a pressione di Radio 24. Vi saluto e vi ringrazio Oscar Giannino, perché qui dovete sapere che poi non sempre si stacca il riscaldamento, il dispendio energetico buttato alla finestra. Ma detto tutto questo, grazie per l'ascolto come sempre in diretta in podcast. Vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. E con questa puntata, diciamo, continuate pure a proporvi anche per la serie che abbiamo intervallato negli ultimi due mesi con le puntate dedicate alla cronaca quotidiana, come ieri purtroppo alla tragedia dell'attentato alla metropolitana di San Pietroburgo. Sapete che nel frattempo dovrebbe essere stato accertato che questo 22enne di nazionalità kirghisa, l'autore dell'attentato ieri. Sapete che oggi le cronache sono fortemente, diciamo così, occupate da questa notizia dell'uso delle armi chimiche, purtroppo contro civili, da parte di Bashar al-Assad in Siria. Ma oltre alle trasmissioni economiche o per la cronaca, abbiamo in queste ultime settimane, spesso grazie alle vostre segnalazioni e al fatto che vi siete resi disponibili, alimentato questa serie di trasmissioni, di cui oggi, per non continuare a farla troppo lunga, visto che come avete visto nei dati Istat dell'occupazione di ieri ne abbiamo una conferma che per l'ennesima volta, anche a febbraio 2017 su febbraio 2016, i posti di lavoro guadagnati in Italia riguardano gli over 50 anni, mentre gli altri continuano ad avere il segno meno, quindi il problema resta. Ma per non farla troppo lunga, oggi facciamo una puntata conclusiva di questa serie, e la domanda al quale tenteremo di dare una risposta riguarda un tema, lo ammetto, non proprio diffusissimo, ma che però ha suscitato il mio interesse, e devo soddisfare la richiesta di un ascoltatore che ha due giovani figli liceali alla fine del ciclo secondario superiore, che sono intenzionati, appassionati, credono di avere questa vocazione. Qual è? Quella dell'attore. E la domanda a questo punto a cui tentiamo di rispondere oggi, mi rendo conto, molti di voi diranno non mi interessa, cambio trasmissione, però guardate, è un tema anche questo, visto che l'industria dell'intrattenimento, dello spettacolo, insomma, io sono un amante del teatro e delle cineproduzioni, è una forma da sempre nella storia dell'Occidente più elevata attraverso cui si fa cultura. Noi tentiamo di dare una risposta con gli ospiti di oggi alla domanda: come si diventa davvero attore se si è giovani? Se i percorsi di formazione che ci sono in Italia sono, tra virgolette, in termini comparati, quelli giusti, se davvero poi sono quelli così decisivi, cioè il merito poi è quello che si premia quando si tratta di trovare delle scritture e di diventare attore professionale, quanto si colpo di tosse guadagna, perché è un punto che io inviterei tutti voi giovanissimi a tenere bene chiaro in testa. Va bene le vocazioni, però ve l'ho detto mille volte, avete sentito quante volte vi abbiamo detto, ma pensate a ingegneria gestionale, ingegneria meccanica. Naturalmente sono arrivate frotte di lettere dicendo perché devi o volete o credete di avere gli strumenti per abbattere le vocazioni dei giovani. Non ci interessa abbattere le vocazioni, ma non ci interessa raccontare prospettive di reddito diverse dalla realtà. Noi dobbiamo descrivere la realtà, non scoraggiare nessuno, e quindi l'effetto è quello che chi intraprende la strada che sente propria deve sapere però che cosa lo aspetta. Molti di voi magari non saranno appassionati di teatro, è un male, lo dicono le statistiche italiane, perché io da giovanissimo ero appassionato, perché quando iniziai a compitare di greco al liceo, di fronte ai grandi classici, alle tragedie greche, noi li rappresentavamo nel nostro liceo Alfieri a Torino, ed era una scoperta pazzesca, nel senso che tutti gli interrogativi più fondamentali della condizione umana e della nostra tradizione culturale occidentale stanno in Eschilo, Sofocle, Euripide, almeno per me, il che non significa che dopo tutto quello che è venuto, ma tutto quello che è venuto dopo nel teatro è, per così dire, coerente a una certa impostazione. Il teatro è una delle più nobili ed elevate espressioni dell'impegno civile, non è solo spettacolo e intrattenimento. Diceva Novalis che il teatro è che cosa? L'attività di riflessione dell'uomo su se stesso. Allora, io credo profondamente in chi sente questa missione, ma so per esperienza che è molto duro. Allora, abbiamo due ospiti ai quali farci spiegare il percorso di formazione e le difficoltà, per così dire. Allora, una è di fronte a me e io ho in mano il suo curriculum, che naturalmente mi lascia muto, nel senso che mi sento un rifiuto umano di fronte a chi un curriculum di questo tipo, perché diciamo ha titolo per parlare, non solo perché Carlotta Viscovo, che è qui con noi, grazie di esserti resa disponibile in studio. Grazie a voi di avermi ospitata. Perché ovviamente non solo è un'attrice professionista, e si è presa pure la briga da quasi un anno, da maggio del 2016, di ricoprire un incarico che diciamo è un incarico pubblico per tentare di migliorare, no, la sua categoria. Che cos'è? Sono coordinatrice nazionale della sezione attori SLC CGL. Che dopo attori come Massimo Ghini, come Giuliano Scarpati, sì, cioè stiamo parlando di attori famosissimi. Sì. No? È stata scelta una sì, donna, attrice di prosa e non di prosa, di TV, in cui insomma... Che dal 2000 al 2016 l'intero foglio A4 non riesce a comprendere tutte le produzioni che ti ha visto lavorare, e quindi sono contento, perché vuol dire questo è un ottimo curriculum professionale, e naturalmente sarai ricchissima, quindi. No, assolutamente no. Iniziamo subito dalla nota dolente. Dal chiarire questo punto. Non è ricchissima, cari due giovani ascoltatori che pensate di fare l'attore. E poi è collegato con noi perché sta a Roma, doveva venire anche lui oggi, ma c'è un impegno di lavoro, quindi via via via, meglio il lavoro prima. Vincenzo Zampa, che Vincenzo Zampa io ringrazio naturalmente di essersi reso disponibile. Buon pomeriggio, Vincenzo. Ciao, buon pomeriggio. In realtà non sono a Roma, ma sono alle Bahamas a spendere tutti i miei soldi che ho guadagnato in questi anni. È ovvio, in un paradiso fiscale, ovviamente. Esatto. Stai dissipando tutto ciò che... Perché sai, molti pensano, ma gli attori in definitiva poi lavorano poco, fanno una bella vita. Sì, sì, come no. Sì, diciamo che lavorano poco. Non sono d'accordissimo sul fatto che sia distante, diciamo, dalla vita attuale, adesso il teatro, ma soprattutto la televisione o le produzioni televisive che adesso si stanno spostando molto su internet. Cioè, un tempo c'era, diciamo, Aristofane, no? C'era la Democrazia di Predica e tutto quanto. Adesso invece ci sono Netflix e quant'altro, che influenzeranno sicuramente i giovani, ma alla base di tutto c'è l'attore e il suo lavoro. Allora, tu sei diplomato a una delle importanti, insomma, delle 5-6 grandi scuole di teatro italiano, quella del Teatro Stabile di Genova. Esatto, perfetto. Sono diplomato nel 2008, ho iniziato, diciamo, questa carriera l'ultimo anno. Diciamo che erano un po' gli anni, non so se Carlotta conferma, dove si lavorava già un pochino di più, le cose erano più chiare. Ho iniziato subito a fare una produzione all'estero, mi sono divertito tantissimo in una produzione televisiva tedesca. E ma perché eri tedesco madrelingua o avevi fatto un pezzo di formazione tedesca? No, semplicemente ho fatto un provino, una cosa che sembra ormai qualcosa di mistico che non c'è più, ma diciamo che all'estero sono un pochino più attenti, non al nome, ma diciamo alle qualità o magari a quello che serve in quel momento. È stata un'esperienza bellissima, perché ho notato questo, che all'estero ci si diverte di più a fare questo mestiere che in Italia, che si vive con un po' di depressione, con un po' di paura. Allora mi tocca fare la stessa domanda iniziale, sì, entrambi, cioè io naturalmente mi sono munito al mio amico che mi chiedeva questa trasmissione di dire: guarda, questa è la lista delle maggiori accademie scuole di teatro italiano, per capirci, l'Accademia Silvio D'Amico di Roma, ecco, che è diciamo quella storicamente più onusta di produzione di mostri sacri, ma non solo, anche di giovanissime generazioni che poi sono affermate sia nel cinema che nel teatro, quella appunto è il Teatro Stabile di Genova, teatro quella stabile Paolo, quella di Paolo Torino Grassi, quel Teatro Stabile di Torino, io da torinese, e io l'ho fa fatta. Bene a tirarmi, infatti tu l'hai fatta, naturalmente la scuola Paolo Grassi a Milano, quella di Bologna Alessandro Garante Garrone, per chi ovviamente è malato di cinema c'è la Scuola Nazionale di Cinema del Centro Sperimentale di Cinematografia. E la Scuola del Piccolo Teatro di Milano. Del Piccolo Teatro di Milano. Allora, questo diciamo è il quadro, cari genitori e cari giovani ascoltatori che pensate di fare l'attore, dovete passare di là. Ma la domanda per entrambi è: si deve davvero passare di là, Carlotta? Dal mio punto di vista sì. Dal punto di vista di Vincenzo? Si deve, dal mio punto di vista attualmente sì, anche se un tempo no. Non so se sono chiaro. No, per me è chiaro, però spiegalo per coloro ai quali in ascolto non è chiaro. Ma perché adesso l'Accademia dà una formazione necessaria, dà un inquadramento specifico ai ragazzi che si avvicinano, mentre prima magari c'era il regista più illuminato, no? Penso che ne so, un Pasolini che cercava le persone tipo Ninetto Davoli, tipo per strada, ok? Adesso comunque il curriculum, il nome di un'accademia all'interno di un certo tipo di produzioni è qualcosa che fa... ha un eco molto forte. E poi diciamo che un tempo era possibile anche formarsi lavorando. Esatto. Invece adesso, siccome il lavoro è diminuito, è meglio. Aspetta, però, Carlotta prima. Dice: è diminuito. Prima Vincenzo ha fatto capire a chi ascoltava, se questa fosse la sua intenzione, non lo so, che invece è aumentato. Vincenzo, no. Ah, ecco. Assolutamente no. Un tempo era molto. Cioè, ma anche fino a pochi anni fa era leggermente meglio la situazione. Adesso siamo allo stato brado. Sì. No, naturalmente la differenza la fa che il teatro ha pochi danni e il cinema pure lui, malgrado, devo dire, i generosi aiuti di Stato che sono aumentati in questi anni, con Franceschini sono aumentati e non diminuiti. Sì. Franceschini ha anche firmato un decreto legge nel 2014 per lo spettacolo dal vivo che ci ha un po' penalizzati, diciamo, perché a livello quantitativo le produzioni in realtà sono aumentate. A livello qualitativo invece appunto il livello si è abbassato parecchio, però per appunto rispettare i parametri quantitativi richiesti dal nostro ministro si fanno produzioni che magari vengono provate 30 giorni per stare in scena 5 e poi vengono buttate via. E poi vengono buttate sì. via, non utilizzo proprio molto, secondo me, efficiente esatto. del denaro, nel senso esatto. che le produzioni quando si realizzano bisogna, come si dice con orrenda espressione economica che ovviamente uso io e che fa incaponire la gente dello spettacolo, metterle a reddito, cioè le produzioni bisogna poi farle girare e rendere da questo punto di vista produttivo, incassano di più, risparmio ospitandole, chi offre dei teatri, gestisce i teatri eccetera eccetera, e in questo noi siamo molto carenti. Le fondazioni liriche italiane per esempio stanno col cappello in mano malgrado tanti anni di dibattito su questo, un po' per queste stesse ragioni. Se uno vede la produttività comparata del teatro d'opera italiano rispetto ai modelli affermati e molto più autosostenibili finanziariamente di altri paesi avanzati che hanno modelli diversi senza voler copiare dall'estero, ma insomma questo è uno dei problemi. Domanda di nuovo uguale ma partendo da Vincenzo per entrambi: ma quindi si può dire o è sbagliato a chi ci ascolta che non bastano dei workshop teatrali, non bastano delle compagnie, diciamo così, non professioniste in cui da giovani si comincia eccetera, per pensare che a quel punto mi faccio un agente e mi becco un contratto? Vincenzo, è improbabile o è ancora qualcuno passa da questa strada? Ma ancora siamo nel mondo dei cartoni animati adesso, per questa strada secondo me. Adesso bisogna formarsi, bisogna avere un carattere molto forte, bisogna avere tanta pazienza, tanta sopportazione e soprattutto se non si ha una famiglia ricca alle spalle bisogna rimboccarsi le maniche e far qualsiasi tipo di lavoro. Tanto se questo lavoro lo vuoi fare lo fai, perché chi fa questo lavoro è malato, è innamorato. È pazzo di questo sì. lavoro, è come un rapporto d'amore, l'amore non muore mai e se sei innamorato di questo mestiere possono farti qualunque cosa. Ma tu quando ce l'hai avuta la chiamata? La chiamata ce l'ho avuta, lo so benissimo, perché io, parafrasando le parole di una persona più politicamente importante di me, io volevo fare il calciatore, quindi magari giocando a calcio mi sarebbero potute capitare opportunità che adesso nel mondo dello spettacolo magari capitano meno, però l'ho avuta ai primi anni del liceo, andando a vedere uno spettacolo, li guardavo e dicevo ma cosa cavolo fanno questi qui, ovviamente non ho utilizzato la parola cavolo. Infatti ero indeciso se fare il calciatore o il cuoco, ho deciso una professione più remunerativa che era quella di fare l'attore. C'era un mostro sacro o uno stile attoriale che ha avuto un ruolo fondamentale quando eri ancora adolescente per orientarti io a questo? Io adoravo e adoro una persona con cui mi è capitato anche di lavorare, che è Paolo Rossi. Poi ovviamente anche i maestri che adesso, voglio dire, mi stanno formando anche lavorativamente, come Gli De Capitani, Ferdinando Bruni del Teatro dell'Elfo. Però diciamo che sono stato fortunato a incontrarli. Ecco. Vabbè, io si vede che sono un nonno rispetto a voi, perché devo dire io considero essere fortunatissimo nella vita, perché essendo avendo trascinato fin dalla mia scuola media a fare gli abbonamenti al Teatro Stabile a Torino, al teatro che aveva praticamente stava riaprendo, al Teatro dell'Opera, io sono di quelli che hanno ancora visto Paolo Stoppa, Rina Morelli, Tino Buazzelli, cioè della gente che mi faceva tornare a casa a ore improbabili, perché mia madre a quell'anno non mi avrebbe mai fatto tornare a casa se non fosse andato a teatro, mi faceva tornare con dentro un'esplosione. Io lo paragono a delle vere e proprie esplosioni. In particolare mi ricordo gli spettacoli degli anni 70, quando ero proprio ragazzino. Così, e quindi vabbè, capisco questa cosa. Invece, sì, scusami, tu che sei, cioè, hai un'età improbabile. Qua quanti anni hai cominciato, visto che il curriculum comincia al 2000? Avevi 12 anni nel 2000. No, no, quest'anno compio 40 anni. Ah, beh, allora li porti molto bene. Grazie. La tua chiamata com'è avvenuta? Beh, la mia chiamata, io ho sempre, da quando ero bambina, ho fatto un corso di animazione teatrale, ma l'illuminazione l'ho avuta guardando Mariangela Melanto al Carignano nell'affare Macropolis, di Luca Ronconi. Di Luca Ronconi, sì, spettacolo, sì, meraviglioso. Meraviglioso, lei fantastica, quindi mi sono detta... vorrei provare un giorno a dare io un decimo delle emozioni che lei sta dando a me in questo momento. Scherziamo. Mi ha completamente travolta. Però ecco, già da lì ho sentito subito l'importanza del formarmi. Cioè ho visto proprio qualcosa che io non sarei stata in grado di fare senza poterlo imparare da dei maestri. Il problema adesso delle nuove generazioni è che forse non hanno più riferimenti così grandi, no? Appunto da poter vedere con quell'ammirazione, con quel rispetto. Meno mostri sacri? Temo di sì. Temo di sì. Ci sono bravissimi attori in giro, però anche per il discorso, secondo ma me... Ma Vincenzo è d'accordo? Meno mostri sacri in giro? Meno mostri sacri, ma più mostri. Ah, oddio, è ancora peggio. In tutti i sensi, no, tutti i sensi. Bisogna stare molto attenti. Però ci sono anche delle bellissime produzioni, delle bellissime cose. Sì, che però stanno magari in scena poco. Ah, no, esatto. Sono esatto. Premiate poco. E proprio ci sono magari degli spettacoli gioiello che però, come dire, soltanto una piccola nicchia di spettatori riesce a scoprire, perché proprio perché da un punto di vista produttivo non hanno la possibilità di andare in giro come meriterebbero e quindi di arrivare a un pubblico, insomma, più vasto. Allora, noi adesso abbiamo un minuto di traffico e poi torniamo e andiamo al punto, cioè una specie di bilancio comparato da quello che avete visto e come funzionano. È ovvio che il teatro e il cinema sono molto legati alla lingua, come ovvio, quindi c'è un problema e cui non si è molto fungibili, per così dire, tranne per chi si è formato già all'estero, e allora ha possibilità di, con buona possibilità, se è bravo, bravissimo, anche di avere contratti, di fare film fuori, eccetera eccetera, ma il teatro è complicato. Ma altrimenti, per quello che avete capito voi, Carlotta e Vincenzo, in Italia è abbastanza efficiente questa roba in termini comparati per chi ha la vocazione? Altrove ci sono strumenti che dovremmo adocchiare per tentare di capire, forse in Italia sarebbe così, invece di costringere a fare tutti i camerieri per circa 15 anni della propria vita in media, no, adesso sto esagerando, però per parecchi anni prima di svoltare davvero e diventare dei professionisti di questa cosa meravigliosa. Tra un minuto, strada. Per il tuo vino scegli il meglio. Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta. La versione di Oscar. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira per questa voce che dovrebbe arrivare. Allora, questa è una canzone strepitosa di Francesco De Gregori. Oggi è anche il compleanno di Francesco De Gregori. E l'ho anche festeggiato stamattina con un'improbabile interpretazione di Generale. Questa canzone è dedicata appunto al mestiere dell'attore. E ma insomma, non c'è qualcosa di meglio altrove che dovremmo, Vincenzo, pensare di introdurre in Italia, oltre alle scuole accademiche che abbiamo, per rendere un po' meno improbabile il percorso della trasformazione da vocazione in professione? Sicuramente in termini lavorativi, in termini di leggi, in termini di sussidi a favore dei lavoratori, ma basterebbe semplicemente riconoscere gli attori, non solo quelli famosi, come una categoria professionale a tutti gli effetti, con una loro dignità. con tutti i significati che questa cosa si porta dietro, sia economici, sia di sussidi, ma anche che le strutture, i teatri pubblici aprano dei provini finalmente aperti, veri, ma parlo anche del cinema, di qualsiasi cosa. Basterebbe prendere da modelli virtuosi, basterebbe un attimo di studio da chi di dovere e vedere un po' come funziona fuori, semplicemente questo. Non è esattamente una cosa, lo dico da meno appassionato, che però sia in cima alla testa di chi ho visto nei decenni diventare ministro, però questa è un'opinione mia, prescinde dal giudizio politico, sto dicendo che proprio è una questione tecnica, professionale, cioè hai bisogno di qualcuno che sappia e di qualcuno cui... conosca, che esattamente. Qualcuno che ci riconosca. Esattamente, esattamente. Carlotta, sì, tu che dici? Sì, io dico, condivido quello che dice Vincenzo, bisogna appunto partire dal creare una certificazione professionale, no? Che, perché all'estero è molto chiaro chi è attore, cioè l'attore è un mestiere come un altro, invece da noi no, quindi a livello fiscale abbiamo una situazione assolutamente ambigua, va a discrezione del commercialista a cui ti rivolgi, anche rispetto ai sussidi di disoccupazione. Ci siamo occupati tempo fa dei guai che avete per la ricongiunzione previdenziale come attori e doppiatori, che è un disastro assoluto, è un disastro. Poi adesso l'Empals appunto è stata esattamente inserita nell'IMSS, esatto, e quindi se fosse riconosciuta la figura giuridica dell'attore creando una certificazione con dei parametri sensati, quindi sicuramente guardate, noi non stiamo adesso, qualcuno che obietta dice già l'ho visto, ma come Giannino, tu sei contro la burocrazia, stai burocratizzando l'attore? No, qua si tratta di avere un minimo di chiarezza nel riconoscimento di che cos'è la professione. Cioè non è che stiamo parlando di fare l'albo dei medici, no, ma bravo, capite che qui il problema è se chiunque si paga, diventa attore. No, non dovrebbe essere così, come è evidente. Esatto. No? Ecco, questo è il punto di fondo per capirci e spiegare a chi invece pensa che sia. No, vogliamo castizzare, è il contrario. Vogliamo evitare che siano dei... come li vogliamo chiamare? Dei precari che rischiano la depressione. Adesso io esagero, ma però il problema è esattamente questo. No, no, cioè, è vero. Io ne ho conosciuti un po' nell'arco della mia vita, perché a Roma appunto avevo amici agenti, c'è stata una moria di agenti, pure loro mica male, devo dire, in questi anni, e però è un mondo privo di riconoscimento. Ecco, il riconoscimento per una professione che abbiamo descritto all'inizio come una delle più nobili, alte e insieme basse, com'è la vita, l'espressione della civiltà, e beh, senza riconoscimento vuol dire che abbiamo perso la sua importanza, e infatti l'abbiamo persa, questa è la verità, perché rispetto ai secoli alle nostre spalle il teatro è stato fondamentale. Nel teatro ad Atene, ma non solo ad Atene, sotto i monarchi assoluti si diceva e si faceva quello che era proibito fare, e questa roba spingeva la vita civile di un paese. Se voi a teatro non ci andate perché non ci avete più la passione, vi perdete questa roba qua e impedite a chi la vuole fare di farla. Questo è il problema fondamentale. Sentiamo cosa ci dice Gianni da Brescia. Gianni, c'hai figli o figli anche tu che vogliono fare gli attori? Sì, buonasera. Sì. Buonasera. Io appunto ho una figlia, volevo un parere da parte dei vostri ospiti. Sì, dica pure. Sul percorso che lei adesso vuole intraprendere. Lei ha 20 anni, dopo anni di danza classica, musical e un percorso teatrale in una piccola compagnia a Brescia, adesso si è iscritta e a giugno inizierà lo Strasberg Institute di New York come cinema. Ah! Volevo appunto sapere un'opinione su... Carlotta, che dice? Beh, fantastico, se conosce bene l'inglese e ha la possibilità economica di andare a studiare a New York, direi che... È un'ottima scelta, Gianni, tu la sostieni, sì? Sì, la sostengo, anche perché a suo dire in Italia qualcosa di serio non ne ha trovato, sinceramente. Io sono documentato. No, no, ma infatti hai fatto bene a documentarti. Naturalmente io voglio essere sincero. Significa avere la possibilità di un certo sostegno, e questo non è un male. Io sono felice, perché spero che tua figlia abbia tutto ciò che è necessario. Lei il talento ce lo metterà. Alessandro da Roma, brevissimo, Alessandro. Ciao Oscar, buonasera a tutti. Sì. Io invece volevo porre una questione, visto che sono un piccolo direttore artistico, un piccolo attore, un piccolo regista, un piccolo autore, tutto piccolo esatto. In tutto. Il problema del dilettantismo, questo lo voglio porre ai vostri ospiti, mm-hmm. in particolare la possibilità che tutti hanno di mettere in scena uno spettacolo anche quando non dovrebbero metterlo in scena. Ma tu sei favorevole o la vedi come un difetto? Sono un difetto, perché ecco, è come se tutti giocassimo a calcetto e pensassimo di andare a finire in Serie A. Siamo tutti giocando allora, io devo dire, la Serie A non si va. Alessandro, sono d'accordo con te, ma conta poco. Hai sentito che anche Carlotta era d'accordo. Io in realtà penso che con Carlotta e Vincenzo faremo un'altra puntata, questa volta non per i giovani e la formazione,